Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Classe 2000 ha mosso i primi passi ad Amici, ma nel frattempo è diventato grande. Esce con l'album Imperfetto. Thomas. Di per sé sono sempre stato un maniaco perfezionista, tuttora continuo ad esserlo per quanto riguarda la cura della mia musica, delle mie canzoni. E in quest'ultimo anno, diciamo, mi sono preso un po' di spazio per dedicarmi alla scrittura, alla riscoperta di me stesso. E ho imparato ad apprezzarmi anche nelle mie imperfezioni, a trovare il bello anche in qualcosa che comunque è puro, ma proprio per questo imperfetto. L'album parla proprio di questo. Però c'è una cosa invece che fa parte di questo tuo maturare, un po' di ironia, un po' di capacità anche di prenderti in giro, di vedere le cose con uno sguardo un po' diverso. È proprio quello. Adulto. Esattamente. Volevo proprio trasmettere anche questo tipo di far trasparire questo lato comunque che fa parte di me, una sfaccettatura della mia personalità, e sono felice comunque che si percepisca attraverso queste canzoni. L'obiettivo era quello di ripresentarmi con un disco consapevole, maturo, che potesse sorprendere ulteriormente il mio pubblico, e devo dire che sono veramente soddisfatto del risultato. Agosto, una perdita di tempo, ed io che passo lento, giro per la città, mi chiedi dove sei. Ti chiamo e non ci sei. Ho letto i tuoi messaggi l'altra sera, ma non mi sento pronto. Mi chiedi forse troppo amore, so chi sei. Sei tutto tranne lei. Quindi ti lascio andare giù, giù, giù, dove non tocchi più, più, più. Mi voglio di fermare il mondo e l'universo, per poi capire il verso. Ma io controverso, torno su, su, su, così non ci sei più, più, più. Ho voglia di scoprire il mondo e l'universo, e poi capire il resto, ma tutto il resto non sei tu. Non gridare che ti sento meglio, sono le quattro, sono ancora sveglio. Mi parli solo per parlare di cose che in fondo mi fanno capire cosa vuoi da me, usando frasi fatte solo per confondere. Tu sai come giocare, io scemo ad aspettare. Non mi lamento più, fai quello che tu devi fare. Ti lascio andare giù. Si cresce con le soddisfazioni, si cresce con qualche piccola delusione. Hai provato a entrare a Sanremo, ti sei fatto il palcoscenico di Sanremo Giovani, anche se non è andata proprio come forse potevi immaginare. Che esperienza è stata? Perché alla fine a 19 anni comunque è un'esperienza importantissima. Esattamente, ma io sono felicissimo di averlo fatto, di come l'ho affrontata. Sono felice del brano che ho proposto, del fatto che sia stato apprezzato dalla giuria di Sanremo e del pubblico che mi ha supportato fino alla fine, quindi di per sé mi ha dato molte soddisfazioni. Mi sono confrontato con giovani artisti con progetti completamente diversi, per cui ognuno presentava un po' il suo e ognuno se l'è giocata al meglio, quindi ho grande stima per i miei compagni di questa avventura. Ho avuto l'opportunità di suonare alla finale il mio pezzo anni 80 con una band di musicisti straordinari, quindi mi sono proprio divertito, è stato fighissimo. Uno stuolo di fan accaniti ti seguono sui social, non vedono l'ora di vederti dal vivo, e intanto c'è l'occasione degli in store. Io ho qualche data con me: Milano, Mestre, Roma, 26, 27, 28 gennaio, ma poi le date si aggiungono e le metterà sui social. Che cosa succede nei tuoi in store? È diverso da quelli precedenti, poiché oltre ai classici firmacopie, dove c'è assolutamente il momento degli abbracci, delle foto, degli autografi, che sono cose bellissime, c'è anche un mini live, quindi un momento di condivisione musicale dove presento in chiave unplugged il mio nuovo disco, dove ne parlo, presento alcune canzoni, quindi è figo. Cioè, sto girando per l'Italia con la mia chitarra e presento il mio nuovo progetto musicale al mio pubblico, non c'è cosa più bella. Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Thomas. I prossimi appuntamenti con Radio Tube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16:00.